legislatura svolgere delle cose. Oggi non è possibile. Uno di... quindi le faccio anche... Oggi non puoi neanche darla, perché è la tramite delle segreterie di partito, no? E oggi non puoi neanche darla, a dire. Al di là di questo, sempre a proposito della verità, che al contrario, però il discorso non si riesce a un po' di dicevo, fate voi, questa materia è una cosa perfetta, bellissima, quindi dai potere a tutti quanti, ognuno ha il suo destino di potere, ognuno può decidere. Ma se non sapevi questo giro, che cazzo decidi? Ok? Tutti convinti, tutti regole con sapere, tutte regole con potere, ma che differenza c'è tra un branco di regole con potere e un branco di voi con potere? Nessuno, serve un branco, serve potere. L'importante è un sapere, non è potere. Quando tu sei consapevolezza, allora puoi votare in che modo lo discutiamo, in che modo. Quindi anche prendi una prova di nuovo Cristo, che tua terra per salvarci, non sa niente di moneta, che sa che si mette a farlo. No? Quando sei inconsapevole, sei consapevole quello che fai, quando non sei la strada, puoi essere trovato di fare a guidare, e quindi, domani, non sei la strada. Prima devi conoscere la macchina, mi pare bene andare e poi si mette la guida. Però contro questo, io vedo, io penso, dico la frattesa, secondo me è fondamentale, secondo voi voi lo facciate. Democrazia diretta, è una democrazia dall'ordine di grandezza, perché quello che è una comunità è chi qua può anche funzionare, però in questo quale comunità di partiti, diciamo, è molto grande, beh, a parte la svizzera, piccola la svizzera, cioè, anche se in svizzera c'è il discorso che il quartiere del mafioso è quello più pulito. Okay. Quindi in Svizzera è difficile, le maggiori banche sono là. Esatto, è difficile dire che in Svizzera vanno bene perché hanno la democrazia diretta o perché è sede di grasso banchiere in persona. Comunque diciamo in questo modo loro sulla costruzione, perché si vanno di reddito in faccio, la banca nazionale di Svizzera vengono ripartiti ai cattoni. Come se noi sono costruzionalissimo, articolo 11 della totalità generica, l'articolo 11 degli americani. E dicono qualche moneta solo il congresso. Gli americani si trovano in uno stato palese di anticostituzionalità. Gli americani hanno detto moneta molto facile. Ok? Esiste fuori uno quel programma che già si è svenduto, che già dai generatori scelti, il Ministero del Tesoro, ad esempio, è un ex cosa non fatto anche lui. Esatto, c'è un lì, tutti che mi dice l'arrivato, l'ammazzano, o c'è un leader che sia tuo amico, io dico sempre, che sia tuo amico e vivo, in contemporanea non esiste ancora. Proprio su questo punto che volevo fare a certo punto si va anche a correre dei lì, quando quello che non suggerisce la strada di questa democrazia di Venezia, è la forza di addurre a bravissimo, perché poi tu devi ammazzare che ci sono altro che la persona come me ha gli stessi strumenti, perché se tu metti un Kennedy che possa fare moneta, io ammazzo Kennedy e ti do la moneta. Se viene come metti un Stato, ma attenzione, che gli fanno un ruolo che in 6 anni non vediamo. Se la combattere contro le cose, ma ad amicinare degli amici. E noi chi dobbiamo anche lasciare un po' di cose. Il fatto che dire, noi non abbiamo più nessun potere decisionale, ci fa dare potere a persone che se ne credono, che sono vissute eccetera. Averlo noi potremmo provare altre cose che non è detto che le sappiamo, non c'è nulla di male a dire di non sapere quale sarà il nostro futuro. Lo so che quella strada è già tracciata, ma l'abbiamo ben visto che sono venuto fuori. Un corpo di angherie, di sangue, di guerra, di scura, di soprusi, ok? Tu ci fai una prima preparata, non lo so. E là c'era un bagno, porto di merda, io vado a aspettarlo. Però mi aspetta e mi aspetta, sono anche i fuori, i miei figli, ok? Perché non cercare un'altra strada quando quella attuale è portata in questa situazione? La democrazia fa vero, il colore di mano alle franche, punto. Tu puoi difendere anche perché ci lavori, perché non hai coraggio di affrontare la verità, come vuoi. Però abbiamo fatto bene di scrivere dove sposarti. Democrazia diretta. Sì, volevo aggiungere una cosa, che la consapevolezza vuol dire che voi dovete fare l'associazione, quando magari partiti strutturati di democrazia diretta. Per trovarla su di voi, noi abbiamo fatto il primi, se su parte democrazia diretta, ci troviamo benissimo. Credo di interrompere, credo di lasciare la fare e devo...